Fulminati in azienda. Certo che fare due passi in pausa pranzo è sempre molto rigenerante. Se non fosse sto smog che mi do il fiato e mattizza l'asma. Ma non senti anche tu la stagione che si avvicina? A proposito, hai già cominciato gli integratori alla prugna per favorire l'abbronzatura? Veramente ho cominciato i preparativi per guardarmi i mondiali nella verandina. Ho comprato un vagone di birra e un camion di salsicce, pronto. Ma cosa avrete mai voi uomini con questo gioco del calcio? Mi sembrano dei tonti a ricorrere la palla da un lato all'altro del campo. Marta, non mi toccai il calcio. E se non fosse per la passione del pallone, la vita mia sarebbe ancora più grama. Sono 4 anni che aspetto di svagarmi un po', e fammi svagare. Ma addirittura 4 anni? Ma poi preferisci lo sport giocato o guardato in TV? Perché sai il colesterolo. Allora Marta, guarda che quando c'avevo il fisico io gli davo de brutto. Mi chiamavano Erbenetti del Tufello, hai capito? Già ti immagino nel tuo campetto di periferia il venerdì sera con gli amici a buttar sudore come un cinghiale. Come un cinghiale, proprio così. Sai che c'è, mia cara Marta? Ero felice. Una volta sì e una volta no, finiva al pronto soccorso, mi sono rotto più ossa io che... Però ero felice. Felice? Ma allora perché non riprendi l'attività fisica? Guarda che ne guadagnerebbe l'umore, forse anche il lavoro, sai, saresti più tonico. La mia ernia, ma perché mi fai ripiombare così? In realtà mi ritorna l'ernia. Per un momento me ne ho persino scordato il tran tramme quotidiano. Voi donne non capite la poetica, non ci potete arrivare. Senti Marco, ho avuto una splendida idea. Perché in attesa di questi sospirati mondiali non organizziamo un torneo di calcio aziendale? Ma pensa a te che bella idea, brava Marte, ma come ho fatto a non pensarci io? Ma certo, lo sai che modestamente nel calcio io sono un fenomeno. Mi chiamavano il Pelé di Cologno Monzese. Ma non avevo dubbi, allora lo facciamo. Sì, scusate, poi dalle mie statistiche risulta che tra la nostra popolazione aziendale il calcio è lo sport più praticato. Non avremo difficoltà a mettere in piedi un torneo a squadre miste. Come squadre miste? Ma quale miste? Schedula, non siamo mica all'oratorio. Io voglio la prima linea contro i venditori, l'information technology contro gli amministrativi e così via. Ma così non fai altro che riproporre in campo gli scontri tra funzioni aziendali. Appunto, FCS, finalmente ci siamo. Finalmente posso rompere gli stinchi a qualcuno senza sanzioni dei sindacati. Ma vai! Quale rappresentante della consulenza e perciò parte neutrale rispetto alle componenti aziendali sono stato incaricato di arbitrare gli incontri? Più venduti ai consulenti, ma anche gli arbitri. Allora signori, dimenticate il vostro ruolo gerarchico e tirate fuori il vostro animo sportivo. Non sto a ricordarvi le regole di fair play da rispettare. Ma voi quando giocate? Ah bella, ma che non lo sai, ci giochiamo tutto sto pomeriggio. Dai, zitta, state zitta che se comincia, dai. Pronto? Ciao Pacco, sono qui con lo sponsor Pantofola d'Argento a preparare il rinfresco post partita. Aggiornami, come vanno le cose? Siamo all'inizio del secondo tempo della finale tra i venditori dello squalo e la prima linea di sul pezzo e i venditori sta vincendo 18-1. Ma come 18? Ma non è possibile, ma sul pezzo si arrabbierà moltissimo se perde. E poi ho fatto già incidere la coppa del primo posto col suo nome. Lo squalo lo marca talmente stretto che non gli lascia toccare la palla. Centrifuga arranca nel suo metro quadro di campo e la porta sta in porta. I venditori sembrano schegge impazzite e i manager delle bocce ferme. Ma come bocce ferme? Ma come i Benetti del Tufello, il Pelé di Cologno? Attenzione, lo squalo si invola da solo verso la porta. Sul pezzo cerca di riprenderlo, arranca, gli afferra la maglia, la falcia, lo squalo rovina a terra. Ma come a terra? Che orrore! Rosso, l'arbitro caccia fuori lo squalo, incredibile, una barella lo porta fuori, ma attenzione, testata lì sul pezzo, lo squalo in barella e poi un altro venditore, cartellino rosso alla vittima. Ma come alla vittima? Ma almeno il giallo, dai, il rosso, ma no, il giallo è più estivo. Tutta la squadra dei venditori espulsa sul pezzo, festeggia la vittoria con i suoi compagni con un giro di campo, anzi 20 metri, no, perché non hanno il fiato, Se vuoi saperne di più, www.zoot.tv 3Z 2O 1T.